fit come un gruppo che fa musica sgangherata, c'era cioè musica sgangherata in giro per la città, mentre insomma era un gruppo, è un gruppo punk femminista che viene dall'esperienza di un altro gruppo, possiamo dire situazionista, che c'è in Russia e che si chiama Vaina, che significa guerra. Perché in Russia è forte questo fermento di protesta, non solo ufficiale e con le forme canoniche della protesta, quindi cortele, manifestazioni, ma anche attraverso queste forme, si può dire, artistiche. Le Pussy Riot vanno in giro da un po' di tempo, da qualche anno, finora si erano limitate a qualche concerto improvvisato e non autorizzato, come si dice in Russia, magari sul tetto di qualche autobus di linea in giro per Mosca o in altri posti del genere. Il colpo, se così si può dire, l'hanno fatto prima con un blitz sulla Piazza Rossa lo scorso inverno, a gennaio, quando suonarono sulla torre che c'è sulla Piazza Rossa, proprio sotto le finestre di Putin, potremmo dire, al Cremlino, la canzone Putin piscia sotto, e riuscirono a scappare, furono inseguiti dalla polizia, ma la cosa finì lì. Un mese dopo, come dire, alzarono il livello ed entrarono nella chiesa del Cristo Salvatore, che è una sorta di San Pietro di Mosca, la chiesa più importante per gli ortodossi, e sull'altare hanno fatto un'altra performance di questo tipo, sempre con la loro, diciamo, mascherata nel modo che ormai tutti conoscono, e cioè dei Mefisto colorati in testa, delle gonne coloratissime color pastello, e hanno cantato una canzone che si intitolava Madonna, caccialo via te Putin. Per questo invece sono state arrestate peraltro nei giorni successivi al blitz, erano riuscite a scappare anche in questo caso, ma la polizia, sollecitazione del patriarca ortodosso di Mosca, il papa ortodosso potremmo dire, Kirill, le sono andate a prelevare a casa, ed è diventato a questo punto, come dire, il caso più importante della Russia. È vero, le Pussy Riot erano un gruppo sconosciuto ai più, persino in Russia. Con questa azione, che potremmo quasi definire l'azione perfetta, sono riuscite ad attirare l'attenzione sulla loro protesta, loro non sono un corpo a parte da tutto il resto dell'opposizione in Russia, anche se con posizioni differenti, tant'è che tutto l'arcipelago delle sigle opposizione russa, come dire, periodicamente va a manifestare sotto i vari tribunali dove si tengono i processi per le Pussy Riot, in sostegno e in appoggio, anche con arresti, incidenti e cose del genere. Le Pussy Riot però rischiano di pagare molto cara questa loro azione coraggiosa. L'accusa ha chiesto 7 anni di carcere per un'azione che persino in Russia verrebbe sanzionata al massimo con una pena pecuniaria, insomma una sanzione amministrativa, e invece contro di loro si vuole dare l'esempio che con la scusa dell'offesa alla religione ortodossa, ai fedeli e queste cose qua, le si vuole sanzionare pesantemente, e quindi questa però potrebbe trasformarsi persino per il Cremlino, per il regime russo, in un boomerang, perché l'eco mediatica che c'è intorno a questa vicenda potrebbe rivelarsi un passo falso, insomma, per il Cremlino stesso, che quindi immagino cercherà di chiudere la faccenda il prima possibile, perché se ne sta parlando troppo. Qualche giorno fa sul magazine dell'Observer, un giornale inglese, ha aperto, cioè sulla copertina c'erano proprio le Pussy Riot nel loro blitz, durante il blitz sulla Piazza Rossa. Artisti come Sting, i Red Hot Chili Peppers ed altri si sono espressi nei concerti per la libertà alle Pussy Riot. E quindi questo sicuramente al Cremlino non fa molto piacere. Però il processo non sta andando bene, c'è un giudice, il giudice Sirova, che come dire, è stato ricusato più di una volta, ricusazione respinta chiaramente, perché sulla ricusazione deve decidere il giudice stesso che è ricusato, proprio sia ieri che oggi dagli avvocati delle ragazze. E ovviamente l'intenzione è quella di una condanna esemplare e probabilmente magari anche, diciamo così, in fretta, perché questa vicenda il Cremlino la vuole chiudere, insomma. Certo. Sì, c'è da dire che nel resto del mondo la solidarietà si è fatta sentire anche dal basso, è diventato un pochino il caso mondiale della repressione in Russia e in generale il caso mondiale della repressione contro gruppi punk, che insomma non sta succedendo soltanto in Russia, che evidentemente ancora nel 2011 hanno qualche cosa di rivoluzionario. Visto che, sì, sicuramente sì, ma come ti avevo detto prima, probabilmente non solo in Russia, visto come dire, se vi capiterà di leggere l'articolo di Repubblica.it, insomma, questo tono anche un po' così sprezzante usato verso chi suona la musica punk, onestamente mi ha lasciato un po' perplesso. Non so se l'autore dell'articolo di Repubblica, quando si fa la doccia, si schietta Philip Glass o la Monte Young, perché magari è, che ne so, perché fa più figo, però la musica punk ha la sua dignità e ne ha avuta parecchia, tuttora, come dire, è una musica apprezzata da un sacco di persone nel mondo, quindi insomma queste considerazioni fatte dal giornalista lasciano un po' perplesso. Ma al di là di questo, bisogna dire che non è soltanto una questione musicale, diciamo, la repressione, certo, in Russia, perché poi i gruppi dell'opposizione sono formati da persone completamente diverse, da un blogger diventato ormai famoso come Navalny, che è una sorta di Beppe Grillo in salsa russa, che dice un sacco di cose interessanti ma poi va a sfilare insieme ai nazionalisti e si è espresso qualche volta contro gli immigrati, quindi insomma ricorda veramente da vicino personaggi più, come dire, più nostrani, oppure i liberali, ma anche i comunisti e anche i comunisti non del Partito Comunista. C'è un po' di tutto. Nelle manifestazioni di quest'inverno si vedevano, sventolavano nei cortei le bandiere con la falce e martello e le bandiere con la croce celtica. C'erano gli anarchici e c'erano i nazionalisti e c'erano i liberals filo occidentali. C'è un po' di tutto questo. La singolarità del gesto delle Pussy Riot, te lo ripeto, è stato compiere quella che si vorrebbe definire l'azione perfetta. Hanno fatto quel gesto dirompente, azzeccato, che ha acceso i riflettori su di loro, quindi, e quindi su tutto ciò che si muove in Russia. Molto, ma molto di più di tanti cortei che hanno sfilato, purtroppo, insomma, dire, nel mondo della comunicazione, in questo sistema di comunicazione, che le cose funzionano anche in questo modo. E ripeto, il problema è che rischiano di pagare la cara. Soltanto una considerazione: ieri c'era scritto su alcuni giornali italiani che Pussy Riot avevano chiesto scusa, e questo la dice lunga su quanta, purtroppo, sciatteria c'è spesso sui media nel contare le vicende che accadono lontano ma anche vicino, insomma. In realtà loro non hanno chiesto scusa di nulla, l'hanno ribadito oggi, per alcuni meccanismi processuali, immagino, si sono scusate con come dire, il popolo dei fedeli ortodossi, se per caso si fossero sentiti offesi da questa loro azione all'interno del Cristo Salvatore, e che questo è naturale, loro non ce l'avevano con il fedele, con la signora o il vecchietto ortodosso che vanno a pregare in chiesa. Era un'azione di protesta che doveva essere dirompente e forte contro Putin e contro il regime, per la libertà di espressione, per come dire, combattere questo regime oppressivo, quindi quello era. È ovvio che come effetto collaterale ci può essere che magari il chietta che va in chiesa a pregare si sente offesa, loro su questo hanno chiesto scusa, ma appunto è soltanto un effetto collaterale. Loro hanno rivendicato totalmente la loro azione, non, non hanno rinnegato nulla, però insomma i giornali italiani hanno un po' approssimato, come purtroppo spesso accade. Tra l'altro, se non sbaglio, mi sembra che subito dopo l'arresto, così pretestuoso, chiamato dall'arcivescovo, insomma, sul fatto che era un'azione blasfema, eccetera, ci fu proprio un documento dei fedeli ortodossi che dissero: no, però non le mettete in carcere, noi non vogliamo che le... Sì, c'è un fronte assolutamente spaccato da una parte e dall'altra. C'è stato ieri un documento di alcuni scrittori invece ortodossi che invece chiedono di usare la mano dura. Alcuni gruppi di ortodossi invece hanno chiesto di avere, quello che la Milo Sierbi, sarebbe la pietà cristiana, insomma, verso anche coloro che possono sbagliare, come loro, come ovviamente gli ortodossi considerano il gesto delle Pussy Riot. Il fronte è molto spaccato, tant'è che spesso sotto ai tribunali dove si svolgono processi, il processo ha fatto degli itinerari attraverso tutti i tribunali di Mosca. Questo che sta tenendo il processo oggi è un altro rispetto a quello tenuto qualche mese fa, e ci sono dei picchetti, come li chiamano loro, di pro Pussy Riot e contro Pussy Riot, a fianco l'uno a fianco all'altro, e sì, poi insomma sorgono ovviamente discussioni e cose del genere. Ben più pesante è stato invece qualche mese fa, quando dopo l'azione delle Pussy Riot nella chiesa del Cristo Salvatore, il patriarca Kirill ha chiamato a raccolta tutti i fedeli e sono andati a benedire la chiesa, appunto offesa e oltraggiata secondo loro appunto dall'azione delle Pussy Riot. C'erano dei fedeli ortodossi molto molto arrabbiati. In due parole, quello che sta accadendo oggi: le Pussy Riot sono state portate in tribunale, hanno chiesto di rinviare l'udienza perché non hanno né mangiato né dormito, non è stato loro permesso, così loro hanno detto. Il giudice invece ha rifiutato questa loro richiesta e sta cominciando l'interrogatorio dei vari testimoni dell'accusa, quindi il sacrestano della chiesa, un'altra collaboratrice della chiesa, uno di loro, e comunque tutte e due, uno di loro ha accettato queste loro scuse di cui parlavo prima, e un'altra no, ma tutte e due hanno detto che non presenteranno denuncia contro le Pussy Riot per danni morali, come appunto l'accusa sollecitava. E quindi questa oggi saranno ascoltati 10 testimoni. Quello che però sembra è che il giudice e l'accusa siano veramente poco ben intenzionati sul destino delle ragazze, insomma.